Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il noto documentarista Ken Burns definì il jazz un modello straordinariamente accurato di democrazia e uno sguardo alle nostre future possibilità di redenzione. Qualcuno potrebbe non condividere questa affermazione, ma invece è difficile non essere d'accordo con la cantante Betty Carter. Non fosse stato per i giocatori, gli imbroglioni, i gangster e le battone, il jazz non esisterebbe proprio. Non erano certo i medio borghesi a dire «stasera si va a sentire Bird». Di sicuro concordava con lei il grande pianista e compositore Duke Ellington. In genere, il jazz è sempre assomigliato al tipo d'uomo che non vorreste mai vedere insieme a vostra figlia. Ed è proprio di due tipi poco raccomandabili, sicuramente non convenzionali, che parla la storia di oggi. Insieme sono stati i protagonisti della rivoluzione del bebop, quel nuovo jazz la cui deflagrazione fa deragliare il treno del vecchio jazz bianco, carico di big band swing e Dixieland. Due innovatori tanto simili quanto complementari. La sintesi dell'energia creativa e della visione progettuale da una parte e il talento senza limiti e senza regole dall'altra. Per scoprire il primo dobbiamo andare indietro nel tempo sino agli anni 20, in una cittadina del South Carolina che si chiama Chiro. James Gillespie fa il muratore e per arrotondare ha messo su un'orchestrina in cui suona il piano. Gli strumenti della band li custodisce nella casa dove vive con la famiglia e i suoi 9 figli crescono tra pianoforti, chitarre, sassofoni, trombe e tromboni. Ma l'atmosfera in quella casa è tutt'altro che rilassata. James è un uomo violento, picchia i figli e li costringe a esercitarsi con gli strumenti musicali. I ragazzi ben presto arrivano a odiare tutto ciò che riguarda la musica. L'unico dei 9 fratelli che sembra pensarla diversamente è il più piccolo, John, che a soli 4 anni suona già il piano. Finite le elementari, John riceve una borsa di studio per una scuola di musica dove studia teoria e armonia e dove un giorno, un po' per gioco, un po' per curiosità, prova a suonare la tromba di un amico. Sarà però un altro il momento che determinerà la sua scelta di dedicarsi allo strumento suonato con grande successo dal già famosissimo Louis Armstrong. Una sera John sente alla radio un assolo del trombettista Roy Elridge e un colpo di fulmine. Il piccolo Gillespie decide che la tromba sarà il suo strumento e comincia a sognare di arrivare a suonarla bene come Roy. John quella sera ha 13 anni e suo padre è morto da poco senza averlo mai sentito suonare e senza sapere che diventerà uno dei più grandi jazzisti della storia. Il suo nome è John, ma tutti lo chiameranno Dizzy, Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie. A 18 anni John Burks Gillespie lascia gli studi per seguire la madre e i fratelli che si trasferiscono a Filadelfia. Ed è qui che la sua carriera di trombettista ha inizio. Ha ormai imparato tutti gli assoli del suo idolo ascoltandolo sui dischi e in radio e suonando nelle band di Filadelfia fa proprio il caratteristico berretto africano e il soprannome che lo accompagnerà tutta la vita. Dizzy, ovvero vertiginoso. I concerti lo portano nella Grande Mela, dove con l'orchestra di Teddy Hill partecipa alla prima registrazione in studio della sua carriera. È il 1937, un anno davvero cruciale per lui. A New York conosce Lorraine, una ballerina del celebre Apollo Theater di Harlem, che diventerà sua moglie e gli resterà a fianco per il resto dei suoi giorni. Capita sempre così. Se sei presente, prima o poi passa il treno della fortuna. Per Dizzy si materializza nell'opportunità di sostituire il trombettista dell'orchestra di Teddy Hill in un concerto. Il trombettista è proprio quel Roy Elridge che quella sera di 8 anni prima Dizzy aveva sentito alla radio e che era diventato il suo modello. Ma il tredicenne di allora adesso è nell'aspetto e nel modo di suonare molto diverso dal suo idolo d'infanzia. L'esotico berretto africano, i pesanti occhiali di corno e il moscone sotto il labbro fanno di lui un personaggio eccentrico immediatamente riconoscibile. La sua tromba è piegata verso l'alto in un angolo assurdo. Quando la suona le sue guance si gonfiano in modo spropositato e la sequenza di suoni che ne esce è tutt'altro che convenzionale. Roy Elridge ora non è più un modello da imitare, ma un avversario da sfidare in veri e propri duelli di tromba. Hey folks, here's a story about Minnie the Moocha. She was a low down hoochie coochie. She was a rough Ricordate il simpatico vecchietto dei Blues Brothers che canta per tener buono il pubblico aspettando Jake ed Elwood? Quel vecchietto vestito di bianco è Cab Calloway, che negli anni 40 ha una sua orchestra di successo che include musicisti del calibro del sassofonista Coleman Hawkins. Dizzy si propone a Cab e ottiene un ingaggio nella band. Ed è proprio in questa big band che Dizzy inizia a sperimentare sonorità che gli altri trovano a dir poco bizzarre. Il batterista Kenny Clark, che spesso suona con lui nelle jam session del Minton's Playhouse, ricorda: Dizzy si cacciava dappertutto, non riusciva a star fermo, cercava sempre di superare se stesso. Prima di entrare nell'orchestra di Cab Calloway, veniva giù al Cotton Club come sostituto e suonava ogni volta in un ruolo differente. Una sera suonava come tromba principale, la sera dopo come seconda tromba e così via. Io scrivevo delle cosette e poi gliele passavo. Lui attaccava a suonarle da solo e poi andavamo dietro tutti insieme. Avevamo il sacro fuoco, c'era eccitazione dentro di noi. Capivamo che stavamo scoprendo qualcosa. Dizzy è annoiato dalla musica delle big band che godono dell'apprezzamento del pubblico, ma che non lasciano nessuno spazio alle sue idee, procurandogli grande frustrazione. Sente il bisogno di superare quell'argine all'apparenza invalicabile. Il suo è un desiderio di libertà sempre più pressante, un'esigenza insopprimibile di rottura con le regole commerciali che vedono il musicista nero servire allo spettatore bianco un brodo riscaldato, orecchiabile e ballabile. Dizzy si sente pronto a rovesciare il banco. È abbastanza forte e coraggioso per affrontare l'establishment. Lui, la sua tromba e quei giovani musicisti che cominciano a vedere in lui un leader. È durante un tour con l'orchestra di Cab Calloway che il destino procura a Dizzy l'incontro che cambierà per sempre la sua vita. L'anno è il 1940. Il luogo, l'hotel Booker T. Washington di Kansas City. Dizzy è nella sua camera. Quel pomeriggio, mentre sono in camera, viene a bussarmi questo sassofonista. Sapevo chi era, ma non l'avevo mai sentito suonare. Cominciamo a parlare, poi prendiamo i nostri strumenti, lui il sax e io la tromba. Durò delle ore, non riuscivamo a smettere di suonare. È un miracolo se mi sono presentato al concerto quella sera. Ero sconvolto. Le idee che avevo in testa erano personificate in quell'uomo. L'uomo che quella sera fa sbiancare Dizzy, facendogli realizzare di non essere il numero uno, ma semmai il numero due, si chiama Charles Parker Jr. e nel giro del jazz è conosciuto semplicemente come Charlie Parker. Charlie Parker. Charlie nasce a Kansas City nell'estate del 1920, 3 anni dopo Dizzy. Suo padre, uno squattrinato pianista ballerino di vaudeville, lo abbandona con sua madre Eddie, che è ancora bambino. Eddie lavora come donna delle pulizie negli uffici di notte. Suo figlio è un ragazzino irrequieto che, mentre lei lavora, esce di casa e frequenta la fauna notturna dei peggiori quartieri di Kansas City, all'epoca capitale del vizio ma anche del blues e del jazz. Charlie ha solo 15 anni quando sposa una ragazza di 19 e, abbandonata la scuola malgrado sia solo un mediocre autodidatta, comincia a suonare in varie sgangherate orchestrine della città. Il suo sax contralto è un ferro vecchio compratogli dalla madre e ha imparato a suonarlo imitando i sassofonisti Lester Young e Buster Smith. Ed è proprio presso l'orchestra di quest'ultimo che Charlie, non ancora maggiorenne, trova il suo primo ingaggio degno di nota, a cui poco dopo seguirà una scrittura nell'orchestra di Jay McShane. Se la sua scuola di vita è la strada, la sua scuola di musica sono le jam session, ossia i concerti improvvisati sui palchi dei locali di Kansas City. Racconta il suo capo orchestra, Mac Shen. Nella jam session ciò che conta sono le idee. E Parker, a 17 anni, era in grado di reggere il confronto con musicisti molto più anziani, che avevano anni di esperienza nelle grandi orchestre. Era un ragazzo strano, molto aggressivo e informato su tutto ciò che succedeva. Red Rodney, fan della prima ora di Parker e più tardi suo trombettista, ricorda così il suo periodo nelle big band. Non arrivava mai in tempo per provare i brani. Saliva sul palco e senza nemmeno scaldarsi si univa alla band come se avesse suonato quel pezzo per settimane, anche se non lo conosceva affatto. L'ho visto fare numeri del genere un sacco di volte, ma farlo con un'intera orchestra, quello era davvero incredibile. All'inizio il suono era simile a quello di Lester Young, ma come ricorda Gene Remy, collega bassista di quei giorni, emergeva già qualcosa di unico. Appena arrivato Charlie aveva una sonorità dolciastra, ma poco dopo ne acquisì una personale molto nitida e con poco vibrato. Aveva le stesse idee bizzarre che aveva anche prima, cose come i raddoppi del tempo e strambe modulazioni fuori dalla tonalità, ma ora che il suono era pulito, quelle idee surreali prendevano un senso nuovo, un senso sorprendente. Nonostante la sua carriera sia solo agli albori, Charlie Parker, che qualcuno già chiama Bird, ovvero uccello, è certo di essere il più grande sassofonista di tutti i tempi. La sua egomania è già sviluppata e il suo contraddittorio, ambiguo carattere è già formato. Uno dei suoi impresari, Robert Reisner, non ha dubbi al riguardo. Fu una delle persone più difficili che io abbia mai incontrato. Era suave, astuto e in generale diabolico, ecco. Ti adulava, ti cullava un po' e poi zac, il grande tradimento. Ho visto molti suoi manager scappare come cavalli presi a fucilate. I musicisti lo temevano e lo amavano. La sua arroganza era enorme e la sua umiltà profonda. Kansas City è troppo piccola per il grande ego e l'enorme talento di Charlie, che a 18 anni, nascosto su un carro merci, parte alla volta di Chicago, lasciando a casa la moglie e il figlio neonato. Chicago nel 1938 è una città piena di contrasti. La mala, l'industria, il divertimento ne fanno un luogo capace di offrire sia riscatto che perdizione. Qui Bird resta alcuni mesi, durante i quali suona tutte le sere in un club sulla 55esima strada. Poi decide di fare il salto. Poche centinaia di chilometri a sud c'è la città che non dorme mai. Ad Harlem, New York, si è trasferito il suo primo capo orchestra, Buster Smith. Aveva un aspetto veramente spaventoso quando si presentò da me. Aveva le scarpe ai piedi da tanto tempo che le sue gambe si erano gonfiate. Ha abitato a casa mia per un bel pezzo. Suonava tutta la notte da qualche parte e poi tornava a dormire nel mio letto. E lo facevo uscire di casa nel pomeriggio prima che mia moglie rientrasse. A lei non piaceva che dormisse da noi perché non si spogliava prima di coricarsi. E già, lui se ne andava al Monroe e suonava tutta la notte. Una cosa è certa, i ragazzi cominciavano ad ascoltarlo attentamente. Malgrado l'ambizione e il talento, in quei giorni Charlie deve accontentarsi di un posto da lavapiatti in locali dove si suona il jazz. Posti come il Monroe's Uptown House e il Jimmy Chicken Shack di Harlem. Lì i suoi clienti sono ricchi afroamericani, come Ethel Waters e il pugile Joe Lewis, e vengono intrattenuti tutte le sere dal pianista Art Tatum. Anche a Charlie piace la musica di Tatum e lavora in quel locale solo per ascoltare lui. Quando il pianista lascia New York per Hollywood, Charlie decide che i piatti da quel momento li laverà qualcun altro. Al Parisian Ballroom di Times Square riesce a farsi assumere come sassofonista. L'orchestrina della sala da ballo esegue brani da un minuto esatto. Una ballerina a nolo costa ai clienti 25 centesimi a brano. Vola basso, Bird, tra un locale di terzo ordine e l'altro, finché non riceve un telegramma. Suo padre è morto accoltellato da una prostituta. Charlie, che non l'ha più visto da quando era bambino, torna a casa per il suo funerale. A Kansas City lo aspettano Jay McShane e la vecchia band, a cui decide di unirsi nuovamente. E sarà proprio qui che Bird spiccherà il volo incontrando Dizzy Gillespie, quel pomeriggio al Booker T. Washington Hotel. Charlie Parker ha appena conosciuto l'uomo del suo destino, Dizzy Gillespie. Dopo quel primo incontro, Parker a Kansas City e Gillespie a New York cominciano a chiudere le frasi musicali in modi nuovi, decisamente poco ortodossi. Qualcosa di importante, sta per succedere. Nel 1940 Charlie Parker incide il suo primo disco per la storica etichetta Decca Records. Il suo sax alto ha una voce forte, sicura. Il suo stile è unico, assolutamente inconfondibile. Se l'anno prima l'orchestra di Cab Calloway aveva portato Gillespie a Kansas City, ora l'orchestra di Jay McShane porta Parker a New York. Dizzy è riconosciuto come una delle migliori trombe del momento, ha già un suo pubblico, e i giovani jazzisti di New York guardano a lui come a un nuovo leader. Charlie, invece, è praticamente sconosciuto, fuori dal Missouri. I due si incontrano per la seconda volta al Savoy Ballroom, dove Charlie si esibisce con la big band di McShann. Ascoltandolo suonare quella sera sul palco, Dizzy realizza che ciò che sta cercando da tempo è un partner come lui. Capisce che il jazz deve andare nella direzione verso cui corre, o meglio, vola. Quell'incredibile giovane sassofonista che ormai molti chiamano Bird. McShann fa ritorno a Kansas City. Parker no, resta a New York. Sa che Dizzy è in città e che prima o poi lo incontrerà nei jazz club di Harlem. E una notte, al Minton Playhouse, Bird e Dizzy si incontrano. È l'ora di chiusura e nel locale resta solamente la foschia di sigaro che aleggia sulle sedie vuote e sui tavoli coperti di bottiglie. Nel silenzio i due jazzisti si studiano, dapprima a mani vuote, poi armati dei loro strumenti. Quei mesi gravidi di segnali di cambiamento e grande aspettativa culminano in questo istante di silenzio. Silenzio scandito dal suono di piccoli insignificanti rumori d'ambiente, il fruscio della ramazza sulle assi del pavimento, lo scricchiolio di vecchie scarpe di cuoio, il brusio dell'insegna al neon. Lanciandosi in ardite improvvisazioni quella notte e le successive, Dizzy e Charlie sviluppano un inedito, velocissimo modo di suonare. Quella nuova musica molto presto verrà battezzata bebop e la paternità attribuita a loro due. Quando Charlie Parker arrivò sulla scena, aveva un modo nuovo di interpretare la musica e io mi sentivo molto vicino a quel modo nuovo. Era quello che stavo facendo anch'io da un po'. In quei giorni, e più ancora negli anni successivi, le nostre idee erano gemelle ed è difficile dire che cosa sia venuto da me e che cosa sia venuto da lui. Bird era l'altra metà del mio battito cardiaco. Per Dizzy, Charlie è il mezzo, anzi lo strumento, per rompere con un presente lento e angusto e costruire il futuro libero e dinamico che immagina da tutta una vita. Ma Bird in quei giorni vive alla giornata, senza un lavoro fisso e contraendo debiti per soddisfare la sua tossicomania. La sua dipendenza dall'eroina, infatti, risale a quando, giovanissimo, a causa di un incidente automobilistico, subisce un intervento e viene sottoposto a una terapia di morfina. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati è nella New York degli anni 40, dove sta per detonare la bomba del bebop per mano di Charlie Parker e Dizzy Gillespie, duo che traccerà un percorso cruciale per la musica del XX secolo, dal rock and roll degli anni 50 al rap degli 80 fino all'elettronica dei 90. La sensazione più intensa che ho mai provato nella mia vita, da vestito, si intende. L'ho provata quando ho sentito suonare per la prima volta Charlie e Dizzy insieme, nel 44. Da allora cerco di riprovare la sensazione di quella notte suonando la mia musica. Ci vado vicino, ma non la raggiungo mai veramente. È con queste parole che Miles Davis, uno dei musicisti più influenti del Novecento, racconta il suo primo impatto con la musica della coppia Parker-Gillespie. At this time we would like to play a tune. It was composed by my worthy constituent, Mr. Dizzy Gillespie, in the year 1942. Nel cuore delle notti newyorkesi, sui palchi dei fumosi club della 52esima strada, Dizzy e Bird danno luce a un nuovo modo di suonare, sentire e interpretare il jazz, a cui verrà dato il nome di bebop. Il perché di questo nome ce lo spiega proprio Dizzy. Se Dizzy è l'architetto del nuovo jazz, Bird è il pittore dal cui pennello sgorgano forme e colori inediti. Bird è lo spirito del movimento bebop, Dizzy la testa e le mani. È lui a tenere insieme il progetto e suo è il merito se quella musica viene messa per iscritto, come testimonia il trombettista John Faddis. Quando Charlie andava da Dizzy, La moglie di Dizzy non gli permetteva di entrare in casa e allora Charlie si metteva a suonare nel pianerottolo e Dizzy prendeva carta e penna e annotava tutto. Praticamente raccoglieva le idee che ruttavano dalla testa di Bird e poi le mostrava agli altri musicisti. Verso la fine del 41 Dizzy viene licenziato da Cab Calloway per un motivo tutt'altro che futile. Durante un concerto Cab vede uno sputo atterrare sul palco proprio di fronte a sé. Dopo lo show, incolpa del gesto Dizzy, di cui già mal tollera il fastidioso humor e l'approccio troppo avventuroso agli assoli. Dizzy nega e la discussione si fa accesa al punto che Cab colpisce Dizzy, il quale in tutta risposta sfodera un coltello a serramanico e ferisce Cab alla mano. Cacciato da Calloway, Dizzy viene accolto nella big band di Earl Hines, dove si trova a suonare fianco a fianco proprio con Charlie Parker. L'orchestra di Hines è celebre per essere stata la palestra dei futuri boppers. È qui che i due padri del bebop affinano le loro idee e i loro assoli, se quando Charlie si degna di presentarsi al lavoro. Bird, infatti, è sempre più indisciplinato. Latita alle prove e talvolta anche ai concerti. È sempre in ritardo, spesso si appisola sul palco e finge di suonare muovendo meccanicamente le dita sul sax mentre dorme. Hines, che ammira il suo talento, invece di licenziarlo come farebbe con chiunque altro, si limita a multarlo regolarmente. Sarà Bird ad andarsene. La sua scarsa disciplina è dettata dall'insofferenza che gli provoca la dimensione della grande orchestra, che come una gabbia lo priva della libertà. Bird vola a Washington e poi a Chicago, in attesa di ottenere la tessera del sindacato che gli consentirà di stabilirsi a New York, la città dove è intenzionato a vivere e suonare fino alla fine dei suoi giorni. New York accoglie nuovamente Charlie Parker nella primavera del 1944, chiamato dal direttore d'orchestra Billy Eckstein, suo fan. Ma Bird dura poco anche questa volta. Molla l'orchestra e va da Dizzy. Gli è ormai chiaro che quel tipo di complessi finiranno per soffocarlo. Sa che il suo futuro è quello del bebop e nelle piccole band che nascono e si disfano nei club della 52esima, locali come il Three Deuces e l'Onyx, che rimarranno nella storia grazie al quintetto che Bird e Dizzy formano proprio in quei giorni. Il famoso sassofonista John Coltrane, che sulle orme di Parker diventerà un grande innovatore del jazz, all'epoca è ancora un ragazzo. Ascoltando la musica di Dizzy e Bird, cominciavo a capire qualcosa della struttura e degli aspetti più teorici della musica. Sono loro che hanno acceso in me il bisogno di esplorare. Ma al contrario di Coltrane, in quei giorni sia critica che pubblico sembrano comprendere poco e apprezzare ancor meno il nuovo sound targato Parker Gillespie. Bird è sempre più inquieto e la frustrazione lo spinge di continuo verso gli eccessi della droga e del sesso. Malgrado sia fresco di divorzio e di secondo matrimonio, Charlie in quei mesi frequenta altre due donne. Una la sposerà in Messico, pur essendo ancora sposato con la seconda moglie. L'altra è Chen Woods, una ballerina bianca appassionata di jazz che vivrà con lui nei suoi ultimi anni e dalla quale avrà due figli. L'esistenza di Bird è ricca di figure femminili, anche fondamentali, come Chen, ma nessuna di queste donne riuscirà mai a placare del tutto la sua fame di autodistruzione. Una fame cieca che spesso danneggia anche la sua musica, rischiando continuamente di distruggere la sua carriera. Come accadrà l'inverno in cui Dizzy e Bird, che fino a quel momento sembrano inseparabili, partono alla conquista dell'Ovest. Hollywood è immediatamente ostile verso i boppers venuti da New York e la loro nuova difficile musica. E certo non aiuta il fatto che il grande Charlie Parker, il mitico Bird, spesso non si presenti sul palco e quando lo fa sia ubriaco o peggio. Molto presto Dizzy si trova costretto a sostituirlo con un altro sassofonista e la trasferta californiana si rivela un fiasco. Gli sbalzi d'umore di Charlie sono peggiori del solito perché a Los Angeles gli è difficile reperire la droga. A dargli una mano a trovarla è un certo Dean Benedetti, un ex sassofonista che idolatra Charlie e che ha deciso di smettere di fare musica dopo averlo sentito suonare. Come moltissimi musicisti di quel periodo, Benedetti aveva cominciato a fare uso di eroina per puro spirito di emulazione di Bird e si era poi ridotto a fare il galoppino di uno spacciatore, un tipaccio di nome Moose, con il quale Charlie si indebita al punto di pagarlo cedendogli metà delle royalties dei suoi dischi. La permanenza a Los Angeles della band dura 2 mesi e ai primi di febbraio Dizzy e soci si preparano a tornare a casa. Il giorno della partenza però Charlie non si trova da nessuna parte. Dizzy torna a New York per venire a sapere solo giorni dopo che Charlie ha venduto il suo biglietto aereo e si è trasferito nel quartiere losangelino di Little Tokyo, dove si è fatto assumere come musicista fisso in un locale sconosciuto. Nel giro di poche settimane, quel club diviene il centro jazzistico più fervido della costa ovest degli Stati Uniti. A causa di Bird, però, il locale diventa anche un luogo di spaccio di stupefacenti e in seguito a una retata della polizia viene chiuso. Charlie si trova senza lavoro e sparisce dalla circolazione. Di lui non si sa più nulla per un pezzo, finché un trombettista di nome Howard McGee si mette a cercarlo. Lo trova in un box per auto, dove vive in totale miseria. Ha sostituito l'alcol alla droga, con risultati disastrosi. Howard lo aiuta come può, ospitandolo nella casa dove abita con la moglie e facendolo ricominciare a suonare. È ormai estate in California e Ross Russell, proprietario dell'etichetta discografica Dial, decide di concedere una chance a Charlie, organizzandogli una sessione di registrazione in studio. Gli affianca l'amico Howard e fa arrivare in studio uno psichiatra. Charlie è a pezzi, fradicio di sudore e tremante. Comincia così la più drammatica seduta di incisione della storia del jazz, come la definì l'autorevole critico musicale Arrigo Polillo. Registrato il primo pezzo, Charlie sembra stare sempre peggio, eppure vuole continuare e chiede di incidere il brano Lover Man. Ricorda il discografico Ross Russell. Ci fu un'introduzione di piano che sembrò interminabile, perché Charlie aveva mancato l'attacco. La voce del suo sax era stridente, piena di angoscia. In essa c'era qualcosa che spezzava il cuore. Le frasi erano strozzate dall'amarezza e dalla frustrazione dei mesi passati in California. Le note avevano una loro triste e solenne grandiosità. Erano le dolorose note di un incubo. Alla fine del brano ci fu un'ultima strana frase, sospesa, incompiuta, e poi silenzio. Quelli in cabina di controllo erano un po' imbarazzati, disturbati e profondamente commossi. A detta di molti, quell'incisione rimarrà nella storia del jazz come uno straziante, deforme capolavoro. Charlie esegue a stento altri 2 brani. Poi viene accompagnato in albergo e messo a letto. Qualche ora dopo, il portiere dell'hotel lo vede comparire nell'atrio completamente nudo. Bird è fuori di sé, aggredisce il portiere che riesce a farlo tornare in camera. Poco dopo si ripresenta, sempre nudo, sempre fuori di senno. Questa volta viene chiuso in camera, ma poco dopo dà fuoco al letto della stanza. Verrà arrestato e successivamente ricoverato in un ospedale psichiatrico. Studia la musica e padroneggiala. Padroneggia il tuo strumento, poi cancella tutta quella merda e suona. Anzi, lascia che sia il sassofono a suonare te. Questo sosteneva Charlie Parker in Arte Bird, mentre il critico Arrigo Polillo nel 75 scrive di lui: della parola genio si è fatto abuso nel mondo del jazz. Parker però un genio lo fu davvero. Fu un Picasso dell'arte afroamericana. L'uomo che reinventò la sintassi e la morfologia della musica jazz e ne deviò il corso. La sua musica in equilibrio tra delirio e coscienza sembrava provenire dalle torbide regioni del subconscio. La concezione musicale che si manifestava attraverso i suoi assoli si imponeva con prepotenza. Quegli assoli causarono un vero e proprio cataclisma nel mondo del jazz, che dopo la comparsa di Parker non fu più lo stesso e che per molti anni subì nel profondo l'influenza della sua musica. Ma l'influenza di Bird va oltre la sfera strettamente musicale. Moltissimi giovani jazzisti di quegli anni, illudendosi di poter suonare come lui, lo emulano gettandosi tra le braccia affilate e letali dell'eroina. Se un'intera generazione di musicisti viene afflitta dalla piaga della droga, la responsabilità è, con suo profondo rammarico, tutta sua. Perché Parker è sì un genio, ma il suo genio va a braccetto con una spaventosa sregolatezza e un tormento profondo e destabilizzante. Bird è una rockstar ante litteram. Il suo appetito è insaziabile, il suo temperamento talmente aggressivo, imprevedibile e volubile da sfociare nella schizofrenia. I'm so happy 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay 'cause so are you. Look on his Sunday morning is every day. In our days, 'cause I found God. Destini incrociati. Intelligenza superiore, tendenze paranoidi, fantasie sessuali primitive associate all'ostilità, personalità estremamente evasiva. Così descrivono Charlie Bird Parker gli psichiatri dell'ospedale in cui viene ricoverato nel 1946, dopo aver dato fuoco alla sua camera d'hotel. 6 mesi dopo, tanto dura il ricovero in manicomio, Charlie torna libero ed è accolto dalla notizia che Dizzy è la star del momento. Gillespie si è fatto portavoce della rivoluzione del bebop e ne cavalca abilmente l'onda riscuotendo successo di critica e pubblico. Bird ha lasciato New York da più di un anno e mezzo. Chen, sua attuale compagna e madre delle sue 2 figlie, convince il discografico Ross Russell a farlo tornare. Charlie sa quanto vale e sa molto bene che Dizzy sta facendo soldi con le sue idee. Riportalo a New York, Ross. Di ritorno nella Big Apple, Charlie mette insieme una band con 2 musicisti che negli anni a venire avranno carriere straordinarie. Sono un giovanissimo Miles Davis alla tromba e l'astro nascente della batteria Max Roach. Charlie, che è stato dato per morto dopo l'incidente all'hotel e il conseguente ricovero, viene accolto con grande calore dalla città che non dorme mai. In questi giorni Charlie si sta tenendo lontano dall'eroina, ma ricomincia a bere. In settembre il celebre teatro Carnegie Hall ospita la reunion di Dizzy e Bird. I 2 musicisti si sfidano a duello, si inseguono, si colpiscono con assoli sempre più audaci. La loro dirompente energia è alle stelle. Il concerto è un grande successo. Charlie Parker è tornato, ed è tornato al meglio. Tanto che il suo discografico Ross Russell decide di trasferirsi da Los Angeles a New York per seguirne le numerose registrazioni in studio. È il 1948 e Bird e Dizzy vengono eletti sassofonista e trombettista dell'anno dall'autorevole rivista Metronome. Sono questi anni d'oro per entrambi. Dizzy mette insieme un'orchestra con cui sperimenta un jazz afrocubano che porta in giro per il mondo. Charlie invece, che ha una grande passione per la musica classica di Mozart, Beethoven, Stravinsky, Debussy e Bartok, incide con un'orchestra d'archi una serie di dischi di grande successo. A Broadway viene aperto un locale dedicato a lui, il Birdland, dove lui si esibisce, oltre che con l'orchestra sinfonica, con il suo quintetto. Ora però nella band c'è Red Rodney al posto di Miles Davis, che esasperato dall'arroganza del leader se n'è andato da un giorno all'altro. Bird ti faceva sentire alto 30 centimetri, era inarrivabile. È vero, ma era chiuso e non potevi imparare poi molto da lui. L'unica cosa che potevi fare era cercare di imitarlo, come provavano a fare in tanti. Non la pensa come Miles Red Rodney, per cui Bird è molto di più di un maestro e un amico. Era il genere di persona che la sua musica suggeriva. È vero, ci sono un sacco di aneddoti e storie su di lui, ma era gentile, a volte anche timido. Forse pochi lo sanno, ma lui era attento ai bisogni delle altre persone, e questo lo si può dedurre dal modo in cui suonava. Si può percepire nella grande bellezza della sua musica. Naturalmente a volte c'era anche della rabbia, tutti noi ci arrabbiamo. E la si può sentire molto bene, la rabbia, nel suo sax. Penso che nella sua musica si possano avvertire chiaramente tutti i sentimenti che provava mentre suonava, ed è una cosa che non tutti riescono a fare, di certo non sempre, come faceva lui. Charlie diceva, se non lo vivi, non uscirà mai dal tuo strumento. Era un individuo unico, era il padre di tutti noi. Charlie ricomincia a fare uso di eroina. Red, che lo venera, cade anch'egli in una dipendenza che lo porterà a scontare una pena di ben 5 anni di carcere. Lo sgomento e il senso di colpa sono schiaccianti per Charlie, che vede intorno a sé moltissimi, troppi giovani, finire nel gorgo della droga a causa sua. Tra gli altri, 2 talentuosi colleghi bianchi della West Coast, il sassofonista Stan Getz e il trombettista Chet Baker, ovvero i fautori del fresco e rilassante cool jazz che si imporrà come alternativa e per alcuni antidoto all'incendiario e spigoloso bebop. Da parte sua, Bird fa di tutto per scoraggiare pubblicamente l'uso di stupefacenti, ma intanto continua a inseguire l'oblio, sempre più freneticamente, sempre più disperatamente. Dizzy insegue un'idea di jazz che vede se stesso a capo di una grande orchestra, una squadra che ormai separatosi da Charlie porta fuori dai confini americani in lunghe tournée. Charlie, al contrario, non fu mai veramente collaborativo con gli altri musicisti e ora anche la sua orchestra d'archi gli viene a noia. Torna a suonare in quartetti o quintetti, ma le performance sono spesso deludenti a causa delle sue pessime condizioni di salute. Ciò nonostante, viene chiamato per un tour in California in sostituzione di Stan Getz, finito in carcere per una tentata rapina allo scopo di procurarsi droga. Finita la tournée, Charlie decide di rimanere in California ed è a Los Angeles quando riceve la notizia che una polmonite ha ucciso la più piccola delle due figlie che ha avuto da Chan. Il suo già precario equilibrio psichico subisce un duro colpo. I telegrammi che Charlie invia in successione a Chen sono sempre più deliranti. Mia figlia è morta. Sarò lì appena potrò. Mi chiamo Bert. È bello qui. La gente è gentile con me. Arrivo presto. Stai calma. Fammi essere il primo a starti vicino. Io sono tuo marito. Charlie rientra a New York. La cirrosi e le ulcere causate dall'alcol e la debilitazione provocata dall'eroina ne fanno un uomo logoro, malato. È confuso, irritabile, anche violento. Crea problemi in ogni locale in cui suona e la notte in cui viene licenziato dal padrone del Birdland, il club a lui dedicato, tenta il suicidio ingoiando della tintura di iodio. Viene ricoverato all'ospedale psichiatrico Bellevue di Manhattan, dove resta per qualche giorno. Meno di una settimana dopo, vi si ripresenta e chiede di essere nuovamente ricoverato. Qui si disintossica e per alcuni mesi si sottopone a cure psichiatriche. Tutto sembra andare per il meglio, finché improvvisamente ma prevedibilmente la situazione precipita di nuovo. Charlie smette di curarsi, ricomincia a bere e lascia Chen. Vaga per New York come un fantasma ubriaco. La notte dorme in strada, viene visto mendicare in Times Square insieme al grande pianista Bud Powell, a sua volta reso psicologicamente instabile dall'abuso di alcol e dall'elettroshock terapeutico. Quella sera di marzo del 1955 tira un freddo gelido nelle strade di New York. Dizzy raggiunge il Basin Street Club sulla 52esima, non distante dall'Onyx, il Three Deuces e gli altri locali dove anni prima si esibiva tutte le sere con Charlie. Entra nel locale senza sapere che lui è lì e che quella sarà l'ultima volta in cui lo incontrerà. È seduto da solo a un tavolo, più malconcio del solito, disperato. Dizzy gli siede di fronte e gli parla. Con un filo di voce Charlie chiede a Dizzy di suonare un'ultima volta con lui prima che sia troppo tardi. Charlie sa che sta per andarsene, lo sente. Dizzy cerca di confortarlo, ma è molto tempo che sul viso del suo amico e compagno d'avventure sonore è scesa come un pesante sipario, un'eloquente, inequivocabile ombra. Pronto? Mio marito Dizzy non si dà pace. Ancora oggi, quando pensa a quella sera, i suoi occhi si riempiono di lacrime. Era a casa una settimana dopo quando ricevete la telefonata in cui gli dissero che Charlie era morto. Io non dissi nulla. Che cosa avrei potuto dire? Lo lasciai solo perché potesse sfogarsi piangendo. Ufficialmente è una polmonite a stroncare Charlie a casa di una baronessa sua ammiratrice e amica che lo ospita da qualche giorno. Il medico che esegue l'autopsia del cadavere, devastato da una vita di eccessi, gli dà 53 anni, malgrado ne abbia solo 34. Dizzy si occuperà dei funerali dell'amico a Kansas City e a New York organizzerà un grande concerto in sua memoria a cui parteciperanno tutti i più importanti jazzisti dell'epoca. Poco dopo si imbarcherà nel suo più lungo e ambizioso tour mondiale, che porterà il jazz in territori vergini come l'est europeo e il Medio Oriente. E intanto, sui muri di New York, in quei giorni, compaiono numerose scritte che proclamano «Bird lives», «Bird vive». Charlie era ossessionato dall'idea della morte, forse per via del modo violento in cui se n'era andato suo padre. Per Charlie, la morte era un amante, che lui corteggiava costantemente. Io potevo solo provare a tenerlo stretto, puntare i piedi e cercare di tirarlo verso la vita. Yeah, baby. Yeah, I've been drinking. And I shouldn't come by, no.